Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Siamo alla numero 29 e con me anche oggi c'è Giuliano dalla Sardegna. Ciao Giuliano. Ciao a tutti, ciao Francesco. In effetti non posso dire che qui non sia freddolosa. Finalmente, qualcuno dirà, finalmente ci dirà che è freddolosa. Sì, freddolosa Sardegna. Siamo quasi 4 gradi la notte. Attenzione, Giuliano ha detto 4 gradi. Fa già strano che non sia morto di freddo, perché di solito lui dice che fa freddo quando ne fa 21-20. Infatti qua siamo praticamente, qui fuori c'è l'era glaciale. Ah, ecco, c'è l'orso polare del WWF che dice salvami, salvami. Ci sono i pinguini per strada. Ho capito. Va bene, ci siamo giocati tutte le fesserie per il resto della puntata. Allora, oggi parliamo di un argomento interessante, una roba che c'è da sempre, che io ho scoperto grazie all'Arduino Day, su cui ho paccioccato, mi sono messo lì e ho imparato due, tre cose. Oggi parliamo di Node-RED, facciamo un ripassino di MQTT e parliamo un attimo delle novità che sono uscite con Arduino, le presentazioni che hanno fatto Banzi e Musto all'Arduino Day. Ho detto tutto, Giuliano? Pare che sia tutto, poi qualche cazzillo verso la fine. Vabbè, ma quello come sempre per farvi spendere soldi, quello gli serve. Altrimenti, tenete il portafoglio. Ricordatevi sempre che noi siamo attivissimi sul canale di Telegram, anche ora c'è gente che parla di un monitor da attaccare su un Raspberry, ci trovate come G-Cookies su Telegram, siamo in 43, abbiamo rotto il muro dei 42 del numero più bello dell'universo per noi nerd, ma più siamo meglio è. La cosa difficile è sempre quella che se per una giornata ti perdi il canale, recuperare i 400 messaggi diventa difficile. 400 quando va bene. Vorrei dire che abbiamo anche qualche signorina che si è collegata con il canale, che in ambiente nerd è sempre un evento raro. Ma diciamo che sono benvenute. Sempre. No, ma sono benvenuti tutti quelli che hanno una passione nerd, sono benvenuti in questo gruppo, parliamo di un sacco di cose interessantissime e si tirano fuori parecchi spunti. Soprattutto se comprate un qualche cosa e non sapete che fare, venite nel canale e dite, sentite, io mi sono comprato questo, che cosa posso fare? E poi vi viene voglia di comprarne 12 perché vi hanno proposto 12 cose bellissime. Esatto, soprattutto se fosse con Arduino, ESP e Raspberry, tenetevi forte. Sì, ormai sono i nostri cavalli di battaglia. Bene, allora Giuliano, cominciamo a ripassare un attimo cos'è l'MQTT. Io ho fatto anche un piccolo workshop all'Arduino Day, l'ho provato con mano ed è effettivamente veramente veramente facile. Ti passo la palla così tu puoi fare un sunto totale di cos'è questo protocollo. Sì, ma guarda, l'argomento principale che io ho a cuore dell'MQTT è il fatto che sia un protocollo standard, cioè un qualcosa con cui puoi veramente sviluppare qualcosa che poi è compatibile con molte altre, come si può dire, altri sviluppi che magari ha fatto qualcun altro, ma come vedremo, per esempio c'è l'integrazione con diverse piattaforme, Node-RED è una di quelle di cui parleremo, e questo veramente ti dà la possibilità di far qualcosa che non muore lì, non muore sul tuo tavolo del tuo laboratorio, del tuo angolo nerdico. È tra l'altro semplice da poter utilizzare, perché in linea teorica funziona con come funziona una chat, cioè ha delle stanze, dei canali su cui tu puoi pubblicare i tuoi messaggi. Questi messaggi possono essere presi, letti da altri, chiamiamole utenze, da altre utenze sulla tua rete o comunque che sono collegate al broker MQTT che hai scelto su cui pubblicare questi tuoi messaggi, questi tuoi dati, per cui a seconda di chi pubblica e di chi si iscrive per poter leggere i messaggi, c'è questa interazione fra le utenze, che possono essere dei device, dei sensori, può essere il computer che legge il dato per poi far qualcos'altro, insomma è un ambiente standard di semplice utilizzo, di semplice installazione, se vuoi avere un broker nella tua rete e non utilizzarne uno in cloud, per esempio. In cloud ce ne sono tantissimi. Ovviamente c'è sempre il discorso della privacy, dei dati, che riguarda, o comunque che interessa molti di noi, di quelli che comunque ci dilettiamo in queste cosette qua. Il discorso qual è? Che il broker quindi può essere installato anche su degli hardware minimi, come può essere anche un Raspberry della prima generazione. Lo puoi lasciare lì, fargli fare solo da broker, oppure avere un Raspberry che oltre a far da broker dell'MQTT può fare da server di altre applicazioni, vedi Node-RED, oppure altri software che riguardano l'automazione. Adesso mi viene Home Assistant, per esempio, credo che abbia anche lui la possibilità di essere installato su Raspberry. Certo, ovviamente più software mettiamo in pista e più abbiamo bisogno di prestazioni, per cui passiamo magari da un Raspberry 1 a un 2 o meglio ad un 3, dove per esempio però mettendo in piedi il 3 abbiamo anche tutte altre possibilità con il Bluetooth, il Wi-Fi, insomma ci sono varie implicazioni su quello che riguarda la che cosa puoi fare con l'hardware che vuoi mettere a disposizione. Io aggiungerei il fatto che ci sono anche delle librerie per qualunque tipo di dispositivo, cioè di per sé è semplicissimo, cioè mandare la lettura di un dato o leggere questo dato qua si fa con una banalità, cioè è una riga di codice, tu fai la connessione e una riga di codice e hai mandato il dato. Esatto. La cosa bella è che le librerie sono per qualunque tipo di dispositivo, sia per il sensore, mettiamolo così, sia per il broker. Quindi non c'è bisogno di conoscere tecniche di programmazione, tecniche, niente. Basta solo leggere come si danno i vari comandi e sono veramente, veramente banali. E questa cosa, secondo me, è il plus bestiale di questa tecnologia qua. Assolutamente, ci sono infiniti esempi per tutte le piattaforme. Non c'è veramente da... come si può dire, leggere qualcosina e provare subito, perché è nella semplicità del fatto che, torniamo al discorso dello standard, in quello standard rientrano tutti gli esempi che ci sono in giro, per cui insomma è talmente semplice che secondo me può diventare la base di moltissime applicazioni che riguardano la comunicazione tra macchina a macchina, cioè sempre passando tramite un broker ovviamente, che riguardano l'automazione. Tra l'altro l'MQTT è un'evoluzione di protocollo che già viene usato e veniva usato in ambito industriale, di cui adesso mi sfugge il nome, per cui insomma Tra l'altro non è neanche un protocollo giovincello, è un protocollo abbastanza collaudato e insomma dà delle soddisfazioni. Non per niente molte di case di software di quelli che conosciamo, o meglio gente che fa soldi, perché Facebook fa un sacco di soldi, Facebook per la sua chat usa l'MQTT. Credo che anche Telegram abbia una base su quella cosa lì, ma non ne sono sicuro. Quindi aggiungerei il fatto che non si mandano solo letture di sensori, cioè si può mandare qualunque tipo di comunicazione. Cioè uno su MQTT si potrebbe sviluppare la propria chat per la famiglia al posto di usare WhatsApp. Certo, se una famiglia abbastanza nerd tutti. Certo, esatto. Anche perché poi, tornando al discorso, ci sono mille esempi, ci sono anche decine di app sia per iOS che per Android per poter inviare e ricevere messaggi sui canali MQTT. Quindi, volendo, si possono anche organizzare delle proprie chat. C'è un tot di kilobyte, quindi parliamo di, mi pare che siano, adesso non mi ricordo bene quanti siano, comunque c'è un, sicuramente va oltre quello che sono le chat solite, cioè i messaggi soliti. Non, sicuramente non li supereremo mai con quei kilobyte per mandare un messaggio. Quindi magari non si possono mandare gli allegati, però gli allegati non si mandano neanche sugli altri chat, perché poi alla fine dei conti sono dei link che puntano a dei download, quindi insomma, comunque sappiamo. Bene, bene. Allora, io ho fatto questo workshop dove in teoria speravo di fare roba interessante. Praticamente il workshop, che durava un'ora e mezza, si è esaurito con caricate questo sketch sull'Arduino Maker 1000 e fate un test con l'MQTT. Roba da lavoro pratico 5 minuti. Perché questo? Ora io vado fuori tema e alzo un appello. Se vi iscrivete a un workshop e il workshop dice dovete sapere questo e dovete portarvi questo, sappiatelo e portatevelo. Perché abbiamo perso tre quarti d'ora solo perché gente non aveva l'Arduino IDE, gente non aveva mai usato Arduino, gente non aveva le librerie per parlare in MQTT, cioè rompete le balle a chi arriva preparato. Se voi partecipate ai workshop, cercate di rispettare sempre i requisiti base, se no davvero date fastidio a chi tiene il corso e date fastidio a chi vorrebbe fare il corso, ma invece deve perdere mezz'ora perché voi non avete scaricato 150 mega di Arduino IDE. Cosa possiamo dire se non augurargli che anche a questi che fanno così succeda lo stesso? Magari, però secondo me non si impara. Purtroppo c'è gente. Guarda, è una roba. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso triste. Vi assicuro che lavorare con MQTT, da quello che ho visto, è facilissimo. Io stavo pensando, tempo permettendo, se le giornate fossero lunghe 36 ore, potrei farlo, di convertire tutti i miei sensori, al posto che registrare il dato facendo una chiamata in HTTP, la faccio con MQTT, che tra l'altro ha anche un overhead di dati molto più basso, quindi significa che le batterie sui sensori durano di più. Che è quello di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, per chi non l'ha sentita, nella puntata scorsa abbiamo parlato solo di MQTT. Sì, sì, andate a riascoltarla, che siamo partiti dalle basi alle cose un po' più avanzate. Io adesso ho in mente e anche sul tavolo un progettino che riguarda la rivoluzione del mio allarme casalingo, quello che si usa per proteggere la propria casa, che adesso funziona in wireless a 433 MHz con una centralina dedicata che integra anche un modulo GPRS. Ho intenzione, anzi ho già fatto un gateway che prende il segnale 433 MHz e lo spara su un broker MQTT, quindi quello è già in pista. E credo che l'integrazione continuerà con probabilmente credo con Node-RED, perché al momento l'ho visto abbastanza pronto per queste cose qua. Poi, insomma, si vedrà, l'evoluzione andrà avanti. Se volete avere notizie dell'evoluzione, c'è sempre il canale Telegram dove noi scriviamo a fiumi. Perfetto, perfetto. Allora, solo una domanda, Giuliano. Tu usi il modulo GPRS, quindi ci hai messo una SIM dentro? Sì. Quanto costa una SIM per questo tipo di servizi? Perché io non ci metterei mai una SIM dove pago 10 euro al mese per avere 3 giga di traffico, perché io non faccio 3 giga con una centralina simile. Infatti, allora, alla parte che il modulo GPRS in questo momento è usato solo per mandare degli SMS o per fare delle chiamate con cui tu puoi ascoltare quello che succede all'interno dell'appartamento. La più conveniente che io ho visto sul mercato è una della TIM, mm-hmm. Che in pratica ti dà un tot di SMS, un tot di chiamate vocali e, se non mi sbaglio, 500 mega di dati al costo di allora, intanto la paghi, credo, per un anno in totale, e mi pare che sia tipo 3 euro al mese, una cosa del genere. Ah, allora dobbiamo poi andare a cercare il link, perché 3 euro al mese da tenere lì non è una cattiva cosa, eh? Magari la cerco subito, perché vediamo se c'è ancora l'offerta, perché io l'ho vista un po' di tempo fa. E te era qualcosa, cioè aveva proprio un nome specifico, Team for Automation. Adesso non mi ricordo, adesso la cerco. Ok. Anche a fine puntata metti poi il link nelle note, che lo mettiamo noi nel. Yes. Che mettiamo poi sul sito. Eccola qua, Team Home Connect. Mi ricordavo qualcosa del genere. Ah, perfetto. Infatti. Molto bene, molto bene. Allora, adesso parliamo di cos'è Node-RED. Allora, quando qualcuno deve lavorare per gestire dati, fare grafici, immagazzinare dati, spostare dati, tipicamente si schianta con, Dio santo, devo scrivere milioni di righe di codice per fare questo, quello, quell'altro. Node-RED si appoggia su Node.js, quindi è JavaScript. Dico bene o dico una fesseria? No, sì, Node.js è un framework basato su JavaScript. Perfetto, quindi la base è JavaScript, sopra c'è Node.js, sopra ci hanno messo Node-RED. Guardatelo come le scatoline cinesi o un diagramma di Venn. Allora, Node-RED cos'è? È un pacchettino che vai sul sito di Node-RED, cerchi, lo voglio installare, lo puoi installare praticamente su qualunque piattaforma. Mm-hmm. E io l'ho installato sul mio Raspberry B serie 1, il primo, che è quello che uso per la mia videosorveglianza. L'ho installato e lui dice: attenzione, ci metterà circa 20-25 minuti. E io, ma figurati, se un installer ci mette 20-25 minuti, mica deve compilare tutto. Oh, ci ha messo mezz'ora. Perché praticamente l'installer, non so per quale modalità divina, non ha dato nessun warning, nessun errore, perché su Linux è sempre così. A me succede sempre quando devi installare qualcosa di un po' più complesso di un'applicazione con apt-get, è il delirio. Ha installato tutto il framework, tutto, e ci ha messo davvero mezz'ora. Non ci volevo credere. Quindi sappiate che è una riga di comando che è molto rapida da dare, ma ci va mezz'ora per installarlo. Aspetta, però volevo chiederti, io mi ricordo che sulle ultime versioni delle immagini che si scaricano per il Raspberry, Node-RED è preinstallato, o mi ricordo male? Guarda, io ho scaricato la Jesse... Ah, forse per quello, sì. E quindi poi ho installato soltanto quello che a me serviva. Io, sì, allora sulla versione dove praticamente c'è anche Scratch installato, c'è che io mi ricordi c'è anche Node-RED, ah, e sono perfetto. quasi sicuro. Quindi se mettete la versione di Raspbian con l'interfaccia grafica c'è tutto. Io, sì, visto che l'interfaccia grafica su quel sistema non la uso mai, ho fatto che installare la minimal e poi ho esteso le funzionalità in base a quello che effettivamente mi poteva servire. Quindi ho installato Motion, ho installato Python, eccetera, eccetera. Comunque, se Node-RED non ce l'avete, bisogna metterlo su. Poi Node-RED è facile, Node-RED start, finito, lui parte. Se volete, nelle istruzioni c'è come modificare il sistema CTL per farlo partire al boot. Ce l'avete anche che parte in automatico, e poi è tutto via web. Node-RED è un'interfaccia grafica con dei blocchettini, vi permette di fare delle azioni. Banalmente, io la prima azione che ho fatto, che c'è nella guida, è ogni secondo, anzi no, era ogni 15 secondi, genera un numero casuale, e metti questo numero casuale su un testo. Io ho preso il blocchettino del generatore di eventi, il blocchettino del codice dove gli ho detto in JavaScript, ma è un copia e incolla, io l'ho trovato banalissimo, genera un numero casuale, e il blocchettino del grafico, fai il grafico dei numeri che escono. Ci ho messo mezz'ora perché ho dovuto capire che dovevo installare Node-RED UI, che è un plugin di Node-RED che permette di avere di risposta grafica. Quindi Node-RED è una serie di blocchetti che si possono espandere. Ho trovato l'espansione per il SQLite. Certo. Ci sono le espansioni per qualunque cosa, e poi c'è un'interfaccina che tra l'altro è anche responsive, non tantissimo ma è responsive, dove potete mettere i risultati di quello che dovete fare. Ho detto tutto? Mi sono dimenticato di qualche pezzo? Principalmente i componenti sono quelli, cioè abbiamo l'interfaccia grafica dove assembliamo i blocchetti espandendoli, se vogliamo, con delle istruzioni in JavaScript, e dall'altra parte abbiamo la dashboard dove poi possiamo vedere i risultati o anche avere una certa interazione con quello che sono i blocchetti dall'altra parte. È una cosa adesso non so se però è una cosa molto simile ai vari linguaggi che si usano a blocchi per la programmazione, anche per iniziare con i bambini, tipo Scratch o App Inventor per Android, per esempio. Ecco, se non avete mai usato App Inventor, andate su è il sito dell'MIT, se non erro. App Inventor è una figata pazzesca. Voi non scrivete una riga di codice e fate delle applicazioni per Android. Non esageratamente complicate, però per un utilizzo medio per far qualcosa, tenendo presente che adesso anche App Inventor ha la possibilità di avere delle estensioni, e ci sono moltissime estensioni. Per esempio, mi viene in mente la storia di SQLite. Adesso c'è un'estensione che permette di fare. Non è un'estensione ufficiale, è un'estensione fatta da qualcuno della community, che permette la comunicazione con il database di SQLite, che è preinstallato più o meno su Android. E, insomma, interessante, almeno da provare. Guarda, io ci ho fatto uno studio preliminare per un sistema di geolocalizzazione. Avevo fatto l'app che geolocalizzava il telefono ogni minuto, che ti dava i grafici di accelerazione laterale e trasversale per le ambulanze. Quindi mettendo il telefono sul cruscotto tu avevi la tua geolocalizzazione. se stavi accelerando, frenando o sterzando troppo per il paziente che c'era dietro, e lui scriveva su un database le localizzazioni che poi con Google Maps ho preso e le mettevo sulla mappa. Non ho scritto una riga di codice. Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, tra l'altro, se lavori con database in cloud è praticamente tutto pronto. Sì, sì, sì. Molto bene, quindi siamo arrivati al fatto che l'avete installato, l'avete fatto partire, vi siete collegati con l'interfaccia che è l'indirizzo IP della macchina 8080? 1880. Ah, 1880, perfetto. Ah, scusa, volevo dire che per quelli che non sono grandissimi amanti di Linux, tutto questo si può fare anche su Windows. E volendo, quindi, credo, non ci ho provato, si potrebbe anche fare con Windows installato anche su Raspberry. Non ci ho provato però la piattaforma su Windows gira, perché c'è il framework di Node.js, si può installare, si può installare Node-RED, neanche così con tante, anzi forse è più semplice installarlo su Windows che su, da quello che ho sentito, che su Linux, quindi tutto funziona anche lì. Ma guarda, su Linux io davvero una riga di comando su Raspberry ha fatto tutto lui, ha scaricato, ha installato, ha configurato. Beh, questo mi rende molto felice, perché di solito altro che due righe di comando. No, di solito con Linux bisogna un attimo andare a impazzire con le configurazioni e queste cose qua, ma devo essere sincero che Node-RED, io sono tornato dal workshop non perché ci abbiano fatto vedere Node-RED lì, ma perché all'Arduino Day ho visto uno che con Node-RED ha fatto un banalissimo una demo su come leggere l'andamento di un sensore. E io che vedevo quei grafici e dicevo, ma li voglio anche io, perché quando tu hai dei sensori di temperatura in casa, ma leggi solo la massima e la minima, come faccio io con Telegram, hai l'1% delle informazioni. Per esempio, se tu metti il grafico delle 24 ore, tu sai come la tua casa reagisce termicamente alle variazioni dall'esterno. Cioè tu vedi che all'esterno la temperatura cambia molto. Per esempio, quando ho fatto il test, di notte andava sui 10 e di giorno saliva sui 20-22. Vedi la curva che fa durante il giorno e vedi come la casa si muove basandosi su quella curva lì. È bellissimo. Sì, cioè sì, è proprio uno spettacolo. Quindi il fatto di avere visualizzate delle cose piuttosto che leggere dei numeri fa assolutamente la differenza. Sì, poi guarda, magari una puntata faremo su vari strumenti che ci sono in giro per la visualizzazione di questi grafici, tipo Cayenne, Blink e altri. Anche Adafruit ha fatto le sue cose per visualizzare i dati, insomma magari un giorno una puntata la facciamo. Sì, direi si può segnare tra due puntate, perché la prossima l'abbiamo già decisa di quello che parliamo, ma non ve lo diciamo perché noi siamo cattivi dentro. Certo. Magari vi iscrivete al canale Telegram e scoprite in anteprima su che cosa verterà la puntata di maggio. Minimo. Una cosa che purtroppo ho notato in Node-RED, ma penso sia colpa del mio povero Raspberry che fa già troppe cose, perché lui ha un server web attivo, ha un bot di Telegram attivo, ha un SQLite che gira. Node-RED dopo qualcosa come 24 o 48 ore schiantava tutto. Cioè, ho fatto partire Node-RED, tutti i grafici belli, bellissimi, a un certo punto il Raspberry smetteva di funzionare. E io sono andato a guardare nei log, praticamente lui smette di scrivere qualunque cosa a una certa ora. Non ho trovato la motivazione. Il perché? L'ho resettato una volta, l'ho resettato due, poi ho detto, boh, visto che l'unica cosa che è cambiata è stato mettere Node-RED, ho fermato Node-RED ed è una settimana e mezza che gira. E quindi mi sa che Node-RED lo installerò da qualche altra parte. C'è una macchinetta con la UDU che gira. L'unica cosa è che purtroppo SQLite non si interroga da remoto. E quindi dovrei capire come spostarlo oppure come montarlo. Io ho l'impressione che il tutto si incarti perché SQLite è monotask. Mm-hmm. Tu fai una sola cosa per volta. Per esempio, se io faccio delle query molto corpose sul database, SQLite è lento di suo perché non è un gran motore. Il Raspberry Serie 1 c'ha un processore che è un po' del cavolo, ci mette magari 15 secondi. Se in quei 15 secondi arriva una scrittura sul database, la scrittura si incarta. Giusto, certo. Quindi, secondo me, visto che io faccio fare a Node-RED delle letture sul database per leggere le temperature, l'andamento della corrente e queste cose qua, magari in quelle 48 ore capita che contemporaneamente lui scrive due sensori e legge da Node-RED e si impala tutto. Ho questa sensazione, ma non ho trovato nessun log. Ma no, sì, può essere. È anche il fatto che non ci sia nessun log, però strano. Sai cosa? Bisognerebbe fare una prova per capire se quando effettivamente succede che tu hai due istanze o due richieste su SQLite, qualche log scrive qualcosa, cioè si scrive qualcosa in qualche... Guarda, io ho visto nel log dei miei codici che quando l'interfaccina web che prende il dato cerca di scriverlo sul database va in HTTP 500. Ma lo fa l'interfaccina web. Non ho trovato altri log. In effetti non ho neanche avuto modo di redirezionare lo standard output da qualche parte che io possa vedere, mm-hmm, in modo da capire che cosa diavolo capita. Perché, per esempio, quando mi si è incartata la Raspberry, l'ho attaccata al monitor e sul monitor compariva di continuo errore di scrittura, errore di lettura, e l'ho capito così che la memorietta si era corrotta. E quindi volevo capire un attimo come gestire questa roba qua, ma a tempo permettendo lo faccio. Solo che ora ho due... tre gingilletti nuovi che volevo provare, quindi vediamo. I gingilletti vanno poi nella sezione cazzilli. Certo, esatto. Vorrei aggiungere di Node-RED che secondo me è un po' pesante sul sistema, soprattutto se è un Raspberry di prima generazione. Secondo me sul Raspberry 3 non fa nessun problema. Ma io l'ho provato sull'1, insomma, non l'ho provato a fondo, nel senso non l'ho sfruttato particolarmente. Girava, nel senso che ci potevi fare qualcosa, però si vedeva che non che laggava in certi punti, in certe circostanze, e avevi bisogno di aspettare. Funziona, quindi voglio dire, se uno volesse provarlo, si potrebbe provare. Tra l'altro, ci sono blog di persone che lo sfruttano tantissimo. È vero che lo hanno messo su Raspberry 2 o 3, per cui non sull'1, però è gente che ce l'ha mesi e mesi acceso, quindi non ha dato grossi fastidi. Sull'1 è probabile, insomma, soprattutto se poi ci fai fare altre cose anche sull'1. Ma sai cosa? Io quell'1 lì ce l'ho che fa da centralina di più o meno tutto, e ho quello perché è l'unico che ha il case con la telecamerina. Sul 2 e sul 3 non ho trovato case dove mettere la telecamera in modo comodo, non ce n'è, non li ho proprio visti. Questo qua ha la telecamerina che ruota di 360 gradi e ha un'inclinazione da 0 a 120 gradi, e per l'antifurto funziona. Lì hai visto se per caso su, adesso non mi ricordo come si chiamano, quel sito dove puoi prendere dei modelli 3D da stampare, magari c'è qualcosa per il 2. Ah, può essere, non ho guardato, perché in effetti io ho sia un B2 che un B3 fermi, e in effetti potrei sfruttare la capacità di calcolo anche per fare queste cose qua, perché in effetti quando fa la videosorveglianza il sistema motion si piglia l'85% della CPU. Immagino. Ma tanto la telecamera è compatibile con tutti e tre, giusto? Assolutamente sì. Sì. La telecamera, se non erro, è compatibile anche con lo zero. Ah, sì, è possibile, sì. Ma io lì magari un'occhiata... Guarda, il discorso è o dai un'occhiata per vedere se c'è qualcosa di pronto, oppure ti prendi la briga e lo fai. e sì, poi lo stampi. Tra l'altro sto provando un sistema che arriva in Italia da poco per fare stampe 3D. Lo sto provando perché mi hanno coinvolto, farò poi la recensione del sistema sul blog. Tu praticamente proponi un progetto e un tot di laboratori che hanno la stampa 3D ferma, che potrei essere io che l'ho comprata e che non la uso sempre, ti faccio l'offerta, te la stampo e te la mando. Ah, ottimo. È una appena crowd delle sì, stampanti 3D. È una è come fosse il Foodora delle stampanti. Esatto. Solo che con Foodora tu non è che dici voglio una pizza, chi me la offre a meno, ma scegli dal menu. Mentre esatto, tu lì dai le specifiche del prodotto, se non sai disegnare in CAD loro ti fanno anche la parte di sviluppo, ovviamente se gli fornisci le dimensioni di quello che vuoi fare. Mm-hmm. Mi hanno fatto delle offerte con dei prezzi tutto sommato folli, perché per una scatola che contenesse l'ESP con le sue batterie mi hanno chiesto 340 euro. Ma ma era per scherzo? No, no, era per davvero, perché io ovviamente non avendogli dato tutte le informazioni loro si sono tenuti dalla parte della ragione. Lo farei anche io se mi chiedessero, senti, mi fai un sito generico, non so bene che cosa farci, e io ti sparo il prezzo alto, ma lo capisco bene. Poi appena finito questo giro qua vi do link e tutto quanto, anche perché con 340 euro uno la stampante se la compra e anche tutto il PLU per stampare, penso pure io, assolutamente. Però l'idea è interessante. Sì, sì, è molto carina, perché c'è parecchia gente che ha la stampante 3D, ma non è che la usa di continuo. Poi il difetto vero delle stampanti 3D è che sono lente, cioè per stampare una scatolina del cavolo ci vanno 6 ore di è un continuo. Io sono ancora in attesa, come qualcun altro che conosco, di cui non farò il nome, ma che è presente sul canale Telegram. Sono ancora in attesa di una stampante 3D che è stata presentata all'aprile dell'anno scorso o a marzo dell'anno scorso, che doveva essere spedita ad ottobre dell'anno scorso e ancora non si è vista. Non voglio dire che i progettisti sono italiani e che quindi tutto questo mi lascia un attimo... Però stanno veramente allungando il brodo. Ma tu avevi fatto... ci avevi speso dei soldi? Sì, 99 euro. Ah, speriamo. Guarda, speriamo, perché veramente ormai c'è, a parte che c'è gente col coltello in mezzo tra i denti pronto su Kickstarter. Sì, sì, no, sì. Ho già visto, a parte gente che dice facciamo una causa collettiva, ma forse non si sono letti come funziona Kickstarter, secondo me, perché non è questione di fare cause collettive a chi e a che cosa, quando tu non è che hai comprato un prodotto ma hai finanziato lo sviluppo di un prodotto, lo sì, sviluppo. Sì, è vero. Quindi c'è poco da... il problema è che è sempre un rischio. Adesso sembra che le cose si stiano muovendo, ma di questi aggiornamenti ne fanno uno ogni mese, ogni 2 mesi, dicendo che abbiamo avuto questo problema, abbiamo avuto questa interruzione, insomma è un po'... tirarta. Paura. Guarda. Però il problema è che si presentano in tutte le fiere, in tutte le cose, a farle vedere queste stampanti. Ma io dico, ma ne avete 10 le fate girare? Cioè, sono sempre le stesse che fate per prendere soldi? Non capisco. Comunque. Mannaggia. Speriamo che torni. Io ho sempre paura di queste cose su Kickstarter. Ci sono un tot di progetti che avrei voluto prendere, come il nuovo smartwatch, come il nastro adesivo con i bottoncini della Lego, insomma, sì, sì. Tante cose, ma ho sempre paura di beccarmi la fregatura. Guarda tutti quelli che hanno comprato quel drone Lily. Quelli veramente, ecco. Mamma mia, ecco, poveracci. Ecco. Lì era una truffa vera, perché il drone non l'hanno neanche mai prodotto. Sì, sì, sì, esatto. Neanche il prototipo, quindi era proprio tutto quanto finto. E purtroppo questi rischi su Kickstarter ci sono. Spero che lo smartwatch che hai ordinato ti arrivi poi. Grazie Francesco, sei molto umano. No, adesso a parte però è, allora il discorso è che quella comunque è già un'azienda che c'è, cioè nel senso quella è un'azienda svizzera che comunque ha dei suoi prodotti già, quindi non è proprio il classico pinco palla che è venuto fuori e ti ha chiesto centinaia di euro per darti qualcosa. Insomma, a parte il fatto che adesso hanno appena fatto 3 milioni e mezzo di dollari su Kickstarter, quindi insomma, spero che qualcosa la produca. Beh, se tu scappi con 3 milioni di dollari, guarda che vai a fare la bella vita ai Caraibi. Trova un'idea, cosa vuoi dire? Tanto bisogna trovare solo una idea, non realizzarla. Esatto, sì, infatti trova un'idea. Poi. No, non sono nelle condizioni mentali di sopportare di aver fatto una truffa del genere per tutta la vita. Non si fa. Ma tu mi vuoi dire che poi magari non dormi la notte perché pensi a quelle 20.000 persone che ti stanno cercando in tutto esatto, il mondo? Esatto, esatto. E tanto poi ti trovano... qualcuno ti becca, qualcuno ti trova, certo. Di fisso. No, ma no, no. Non ti beccano ovviamente i carabinieri, la finanza. No, ti beccano e ti accoltellano, sicuro. No, ti becca Striscia la Notizia al massimo, perché gli altri non... Comunque non si fa, punto. Cioè, non si truffano gli altri. Noi siamo una trasmissione per la legalità, ok? No, guarda, qui si dice non ci siamo buoni. Molto bene. Allora, io direi che su Node-RED abbiamo detto più o meno tutto. Sappiate che su Node-RED si possono installare un sacco di plugin aggiuntivi. E bisogna saper scrivere qualche riga di codice, perché per esempio io per fare l'interrogazione sul database, la select l'ho dovuta fare. Una cosa da dire è questa, che comunque se volete provare Node-RED, a parte la generazione di numeri casuali tramite codice, eccetera, ma... comunque c'è la possibilità di provarlo anche senza un input da fonti esterne, perché c'è la possibilità di blocchettini che accettano un input manuale per vedere poi come va a finire il vostro processo. Quindi anche su quello, per iniziare, si può iniziare anche solo sul proprio computer o sul proprio Raspberry senza aver niente collegato. Poi tra l'altro i blocchettini, diciamo così, per l'MQTT sono già integrati, quindi non avete necessità di scaricare o installare altro. Ci sono mille funzioni. Ecco, forse quello che c'è da scaricare invece, ma è installare, ma è una cosa semplicissima, e sul sito di Node-RED c'è spiegato per filo e per segno, è la dashboard, perché non è nell'installazione standard. Sì, la Node-RED UI. UI, si chiama così, io me l'ho sempre chiamata dashboard. No, il modulino si chiama Node-RED-UI e si accede facendo HTTP l'IP del server 2.1880/UI. Ah, allora io ce l'ho diverso. Ah sì? Allora abbiamo messo due moduli diversi. No, aspetta, perché mi ricordo che c'è stata una prima versione della, diciamo, di questa dashboard che non andava benissimo, e poi ne hanno fatto una nuova versione e credo che l'abbiamo chiamata dashboard, quindi non vorrei che tu adesso stessi utilizzando quella precedente. Ma, adesso perché quando io faccio il richiamo... Boh, non mi ricordo adesso, però di versioni sicuramente ce ne sono state una più vecchia, una più giovane. Quella più giovane ovviamente è stata migliorata, però credo sia la stessa. Cioè, credo che sia quella che utilizzi anche tu. Ok, ma comunque ci ho lavorato poi per una settimana, Non è che abbia fatto... Ah, una piccola nota di colore. Quando avete i vostri bellissimi grafici che vi danno l'andamento della temperatura, di quanto consumate in casa, bla bla bla, non metteteli su Facebook, perché portano solo prese per il culo epocali. Perché noi nerd lavoriamo così. La gente normale, che non è nerd, è come se fosse noi i maghi e i babbani. Queste cose non le capisce. Esatto. E quindi, ecco. Non vantatevi di avere i sensori che vi misurano la temperatura, perché la gente dice Sì, sì, vero, vero, vero. La gente capisce quando voi vi siete fatti il termostato e gli avete detto: guardate che ho risparmiato 500 euro in un anno. E allora dicono: ma come hai fatto? Ecco, esatto. Allora sì. Però per il resto no. È molto figo, è molto bello da vedere, ma nel settore giusto. Per il resto non gliene fregherà mai niente a nessuno, sappiatelo. Esatto, sono completamente d'accordo. Se volete pubblicare i grafici sul canale di Telegram, qualcuno li apprezzerà. Assolutamente, anzi, se volete darmi un qualche plugin che legge direttamente da SQLite i valori e fa i grafici dove io posso interrogarlo l'anno prossimo, cioè l'anno scorso, un mese fa, due giorni fa, io sono molto felice perché ancora non l'ho trovato. Questo è un appello. Aiuto, aiuto, aiuto. Bene, bene. Allora, direi che abbiamo concluso l'argomento Node-RED. Tu, Giuliano, hai qualcos'altro da aggiungere? No, credo di no. Pare che abbiamo detto tutto, o meglio, abbiamo introdotto il tutto. Poi, insomma, gli approfondimenti... Ma gli approfondimenti ovviamente verranno fatti dagli ascoltatori che, ascoltata questa puntata, correranno a scaricarsi Node-RED. Tra l'altro, se lo scaricano senza dover comprare niente, vorrei dire che questa è una puntata cruelty free sul portafogli per il momento, per ora, parlando di Node-RED. sì esatto. Ovviamente, se avete dubbi ci potete scrivere, ci potete contattare in tutti i modi possibili. Ci trovate sul sito, ci trovate sul forum di GitHub, ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter. Insomma, abbiamo canali sparsi per ogni dove. Visto, ho anticipato anche i contatti. Esatto. Quindi, se avete domande, dubbi, sappiate che il più veloce è sicuramente il canale Telegram, ma su Twitter vi rispondiamo, su Facebook pure, anche se non ci siamo tantissimo. Se avete domande, dubbi o proposte, perché no? Cioè, se ci volete proporre, io con Node-RED ho fatto questo, oppure no, vi siete sbagliati perché questa cosa che avete detto non è giusta, siamo disponibili ad ascoltare tutti e a rispondere a tutti. E se siete, come si dice da queste parti, un bettoghi con Node-RED, magari ci possiamo anche sentire in viva voce. Non ho capito che cosa hai detto. Un un bettoghi. Cioè, fai la traduzione, che sul podcast non ci sono i sottotitoli. Siete molto bravi. Ok, perfetto. Grazie mille per la traduzione sardo-italiano. Bene, bene, bene. Allora, chiuso l'argomento, io direi di fare pubblicità a un podcast che non è gestito da noi, ma che passa musica bella e del quale io sarò ospite, se va tutto bene, fra una settimana. A voi la pubblicità. MDB Summer Radio, la trasmissione musicale più inusuale del mondo, creata e condotta da Alex Raccuglia, con lo scopo di promuovere la bella musica, brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore, un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata. MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Alex fa questo podcast di musica, secondo me molto interessante, ospita alcune persone, fa delle puntate monotematiche. Tu l'hai ascoltato già? Sono colpevole, non l'ho ascoltato. No, allora di puntate ne ha fatte tante, gira su parecchi generi, cercati un genere che a te piace, poi lui gasa, lui fa una specie di radio facendoti ascoltare bella, bella musica su un certo tema. Secondo me ne vale la pena. È già, allora, uno è in italiano, è già interessante. Assolutamente sì, ma poi lui coinvolge, lui degli attori si dice che sa tenere bene il palco, lui al microfono sa tenere bene gli ascoltatori. Bene, e questo è allora un ottimo consiglio, scaricato perché poi lunedì ho da lavorare, quindi ci vuole. No, ma se hai anche viaggi lunghi, una sua puntata mediamente dura un'ora e mezza, non la puoi ascoltare a 1,5x come faccio io con gli altri podcast, lo imposti a 1x, se no la musica poi si sente male, è un passatempo ottimo, secondo me. Ottimo, bene, perfetto, grazie per il consiglio. Molto bene, allora finita la parte di pubblicità gratis, perché non pensate che Alex ci paghi o che noi paghiamo Alex per il nostro spot che gira sul suo podcast, cioè, è una cortesia che ci facciamo tra podcaster. E direi che possiamo passare alla parte un po' più dispendiosa. Allora, all'Arduino Day hanno presentato un tot di cose nuove, due mi hanno colpito particolarmente. La prima è che hanno finalmente fatto lo shield NFC, quindi tu puoi parlare con Arduino avvicinando il telefono, che è una cosa che mi piace un sacco. Bene, quindi finalmente dopo i cinesi abbiamo anche quello ufficiale Arduino. Sì, ce l'hanno fatta, è ufficiale dello store, si compra da arduino.cc, ovviamente non si poteva comprare all'Arduino Day, io gli tirerei una martellata sugli alluci, cioè tu hai tutta gente che va a un evento dedicato a una scheda che tu vendi e che loro sono interessati a comprare e non fai il banchetto. Non lo so, non capisco, ma non importa. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta tanto è l'Arduino Maker Fox. L'Arduino Maker Fox è dello stesso formato del Maker 1000 e quindi è questo nuovo formato più stretto e lungo, non ha il wifi a bordo, ma l'antennina della rete Sigfox. Che cazzo è la rete Sigfox? Allora, ne parleremo abbondantemente più in là, vi faccio un rapido assunto. Praticamente una rete alternativa al wifi 3G, 4G, 5G, che copre attualmente in Italia l'80% della popolazione e che è fatta solo per trasmissioni di pochi pacchetti e molto piccoli. Quindi voi volete mettere un sensore in macchina, ma in macchina non c'è il wifi che arriva, non volete metterci una SIM, mettete l'Arduino Maker Fox, lo configurate e trasmettete i pacchetti a un gateway che poi è raggiungibile su internet. È una figata pazzesca, perché tra l'altro è una rete sotto i 900 mega, passa attraverso i muri, quindi copre davvero tanto tanto tanto. Non vi diciamo altro, perché poi la parte su Sigfox verrà ampliata, mi sto informando. La scheda è uscita da comprare non tanto tempo fa, è uscita mi pare settimana scorsa e costa 35 euro con l'abbonamento di 2 anni a questa rete. Finalmente un prezzo secondo me giusto. Sì, perché la rete comunque ha un certo prezzo annuale sulla quindicina di euro più IVA, ma sono in contatto con il reparto commerciale di chi gestisce questa rete, voglio capire un attimo qual è il listino, perché questa tariffa è per i maker, ma se tu devi vendere un sistema basato su questa rete devi capire un attimo com'è che funziona. Certo. Non mi piace che questa cosa delle tariffe sia così nebulosa, cioè sul sito la tariffa non c'è. Scrivo, mi devono rispondere, ci mettono una settimana per rispondermi, sono 3 settimane che cerco di ottenere informazioni e ancora non ci sono riuscito. Quando fanno così sembra che non vogliano vendere. Cioè, sì, è una cosa che non capisco, come quando chiami, senta scusi vorrei questo tipo di servizio, avevo chiamato per affittare un posto auto per una settimana per della gente che doveva venire su per il matrimonio. Senta, ma quanto costa un posto auto per un furgoncino? Eh no, ma noi queste informazioni al telefono non le diamo. Ma scusa. Cioè, tu pensi che io abbia tempo, voglia ed energie di girare 12 autorimesse in città per capire quella che costa meno? Ma io ne chiamo un'altra se mi dice quanto costa la prenoto. Sì, ma infatti no, perché dovevi dirgli, ma volete che vi faccia un telegramma o vi mandi qualcuno tipo messaggero? No, ma banalmente messaggero. Detto, guardate, non condivido questa cosa, certamente non verrò da voi, grazie e arrivederci. È una roba veramente, veramente folle, non capisco. E comunque, di questa scheda è interessante, ovviamente perde la parte wifi, ma ha un'altra caratteristica molto molto particolare, è praticamente fatta per poter lavorare con due pile stilo. Che hanno anche il loro senso, perché consuma veramente, veramente poco. Sì, poi praticamente suppongo, adesso io la scheda non ce l'ho, se qualcuno di voi vuole farci una donazione così ci possiamo permettere di comprare questa scheda, la proviamo per voi. La scheda non ce l'ho, ma secondo me funziona più o meno come le Wemos che uso io, cioè tu fai fare la lettura, la mandi in stand-by e poi dopo tot tempo le fai fare l'altra lettura, perché loro dicono che con due pile stilo dura, mi pare, 6 o 9, no scusa, fino a 2 anni. Fino a 2 anni, sì sì. Sì, e quindi bisogna capire bene come funziona il suo stand-by, perché ovviamente starà in stand-by. La rete Sigfox non è una rete always on, cioè lei permette di mandare tot pacchetti in un tot tempo. Di conseguenza tu pianifichi, caspita ne so, la lettura del sensore di temperatura e ogni tot lo mandi. Sì. Secondo me funziona con MQTT, devo capire ancora, ma mi informo, come funziona la parte di gateway tra un tipo di rete e l'altra. Non so, non ho approfondito il ma abbiamo tempo per maggio, abbiamo tempo per la puntata di maggio, però, e così vi abbiamo fatto spoiler, ecco. Però dicevi? No, dicevo, l'unica notizia utile che invece ho visto qualche giorno fa su Twitter è che ufficialmente il record di distanza tra un chiamiamolo sensore, cioè tra una scheda con un sensore e credo un nodo, adesso non mi ricordo esattamente come li chiamino i nodi della rete, è di 1024 km, quindi c'è la possibilità di mandare messaggi da una parte all'altra di regioni molto vaste. Beh, praticamente ti potrei mandare io un messaggio direttamente. Assolutamente. Perché Torino-Sardegna sono meno di 1000 km in linea d'aria. Penso di sì. Il discorso, quello che bisogna un po' capire è la limitazione dei pacchetti, perché non si possono mandare tutti i pacchetti che vuoi. Questa è la... No, c'è un limite, mi pare, a 12 byte. Sì, a parte quello, ma anche di... oltre di quantità, oltre di quantità, sì. Puoi mandarne X al giorno in uplink e Y al giorno in downlink. Esatto, infatti. Mi pare che il contratto base sia 144 in uplink e 4 in downlink al giorno. Sì, una cosa del genere. Diciamo che è una rete che va molto bene per dei sensori che devono mandarti delle letture, insomma, poche letture al giorno. Ecco. Ma io mi immagino la rete della persona che ha una coltivazione di una qualche pianta che deve stare in un certo range di umido, metti un sensore su ogni pianta, cambi le batterie a ogni stagione e hai la situazione costante delle tue letture. Ecco, lì io avrei un'altra idea con un'altra rete, però ne parliamo poi la prossima puntata. Perché parleremo di Lora la prossima volta. Esatto. Ok, perfetto. Perché la rete Sigfox la vedo più come copertura più ampia, ecco, rispetto a quello che posso fare io con un gateway Lora, cioè è come se fosse più a copertura, perché il discorso qual è? Che la rete che c'è negli Stati Uniti, Sigfox, credo che comunichi con la rete che c'è in Europa, quindi la vedo molto più come una rete con un'estensione molto più ampia. Una copertura worldwide. Sì, sì, sì. E chissà se con la rete Sigfox si può comunicare con il robottino che sta su Marte. Ma chi lo sa? Non so quali tipi di segnali usino per Marte, so solo che il ping è molto lungo. Sì, immagino la risposta. Perché un TTL sarà un TT a morte. No, ma tu pensa il ping che fanno con la prima sonda Voyager. Ah, con la prima? Sì, sì, sì. Penso che non arrivi manco più la risposta, vado in time out di brutto. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo chiuso con Arduino, ora davvero andiamo sulle cose da spendere, perché bisogna spendere, giusto? Bisogna ragazzi, far girare l'economia oltre che le balle di chi spende. Allora, di cazzi di oggi ne abbiamo 6 o 7, vediamo di non metterci 2 ore solo a raccontarli tutti. Io comincio con il primo che è gratis, attenzione, è gratis. Dovreste andare a vedere il canale YouTube che si chiama, un attimo perché avevo il link ma non il nome, si chiama Computer Phil, come la computerfilia, suppongo in italiano sia. Allora, sono dei professori universitari che spiegano in inglese come funzionano alcune cose. Ma tipo, come funziona l'SHA? Come funziona la blockchain? Uno di 3 anni fa è i problemi comuni nei fusi orari, che è la cosa che fa impazzire tutti gli sviluppatori sempre. È un canale video che davvero, se cominciate a guardarlo, dovete disdire l'abbonamento di Netflix. È esagerato. No, no, perché è interessante parecchio, è proprio proprio carino. E, se siete nerd e volete imparare, le cose sono anche scritte molto molto bene. Soprattutto perché è gratis. Sì, sì, sì, beh, YouTube è gratis. Per il momento. Ti passo la palla perché i tuoi sono tutti a pagamento. Sì, da, allora, iniziamo con un qualcosa che, insomma, pagamento sì, ma no, non credo che costi neanche tantissimo, anche perché non mi ricordo se e dove l'ho visto in commercio, però è un gadget di quelli che piacciono tanto a noi, che praticamente... insomma, alla fine dei conti, io non so perché l'abbiano chiamato Idiot, però sì, ha un nome tutto sommato particolare, mettiamola così. Sì, è un microcomputer, dicono qui, praticamente un microcontrollore montato su un piccolo circuito stampato. Che si può montare anche da soli perché non è un SMD ma ha ancora i componenti come quelli i componenti che si possono maneggiare e saldare tranquillamente a casa, anche se comunque c'è gente che l'SMD lo salda anch'esso. Ma no, sono dei robot in forma umana quelli che saldano l'SMD. Ma l'SMD, soprattutto di alcuni circuiti integrati, cioè secondo me è veramente brutto da saldare. A meno che non hai l'attrezzatura giusta, ovviamente. No, l'SMD non mi ci metto neanche, guarda. No, no, no, ma infatti, però ho visto che ci sono gente che il fornetto del mulino bianco per scaldare le brioche l'ha usato per fare queste robe qua, quindi è tutto molto interessante, come diceva qualcuno. Niente, la parte bellina è che è molto integrato, ha la sua interfaccina USB, ed è molto semplice da configurare. Delle cose ha una parte, diciamo così, di, come si chiama, non di breadboard ma di per saldare i vostri componenti, non mi viene la parola. Di schede di espansione, di possibilità di saldarci le cose, esatto, sopra. La possibilità di saldarci i vari componenti per espandere quelle che sono le funzionalità della scheda. Sul sito c'è per esempio come installarci uno schermo OLED di quelli I2C, E il formato è più o meno quello di una carta di credito. È carino, funziona a 5 volt. Insomma, non, è un gadget che per alcune cose potrebbe essere interessante. Credo consumi anche relativamente poco, perché è fatto con un Attini di 85, che è risaputo, consumi poco. E tra l'altro può emulare tastiere, mouse, joystick, insomma, volendo lo attacchi al PC e lo usi per giocare a quei giochi ripetitivi dove devi fare sempre le solite sequenze di tasti, insomma, quelle le cose ripetitive che si fanno in alcune circostanze. Bellino, carino. Adesso no, sinceramente non credo e non mi ricordo se... Ah no, ecco qua, sì, c'è una campagna su Kickstarter per poterlo comprare. Vediamo un po' se l'hanno già attivata, così vediamo anche quanto è il costo. Beh sì, no, l'hanno già attivata e sono già a 3.000 e passa sterline, e il costo minimo è di 15 sterline più, però insomma non è tanto, non è neanche 15, poco. 15 pound sono una ventina di euro, basta aspettare la Brexit che l'euro sarà più alto della sterlina e buon finito. Bene, perfetto, allora siamo a posto, possiamo aspettare. Ok. Invece vai con il secondo, che lo sto guardando e l'ho quasi comprato. Mi viene da ridere. Allora, questo è un praticamente un gadget che riguarda un come si può dire, un aggregato di LED, esattamente 225 segmenti, che praticamente serve come equalizzatore grafico. Ha integrato un suo microfono, oppure può essere collegato con un jack alla vostra fonte, e praticamente vi fa vedere in forma grafica la forma d'onda della musica che in quel momento state facendo suonare. Aspetta, cioè non c'è niente da saldare, niente da programmare, è già fatto? Ah, che sappia io, sì, cioè c'è veramente da attaccare il jack e l'alimentazione. Ok, ne ho comprati 4. Ma adesso non vorrei dirmi che lo vuoi mettere in macchina. No, è un po' troppo vistoso forse. Tu sei veramente, veramente simpatico. No, la nuova radio che ho comprato, sostituta di quella che mi hanno portato via ieri, ha già il display carino. Ah, ecco, mettiamola così, dai. Comunque, allora, a parte poter visualizzare diversi tipi di equalizzazione, tiene per esempio il picco di massimo e minimo su cui arrivano le diverse frequenze, ha uno sdoppiatore per le cuffie, perché se lo colleghi per esempio al tuo lettore MP3, ovviamente se ci colleghi questo non puoi collegarci le cuffie, mentre invece hanno pensato di fare uno sdoppiatore per cui un jack andrà a questo affare, a questo gadget, mm-hmm. E il resto, l'altro jack sarà per le bellino, interessante soprattutto il fatto che costa $13.32 in questo momento. Sì. È in sconto, vabbè, ma il prezzo originale è $14, quindi dollaro più dollaro meno. E tra l'altro ha fatto un voto, perché infatti adesso non è manco disponibile, infatti c'è un avvertimi quando arriverà, quindi insomma è già andato parecchio, è già andato parecchio a ruba, insomma. Ho capito. Bel colpo. E beh, se fai le cose belle... Certo, infatti. Bene, passando a tutt'altro argomento, una cosa carina che ho visto invece in questi giorni presentata da Google, credo, è un, come si può dire, un qualcosa basato sull'intelligenza artificiale, sulle reti neurali, non so come dire, praticamente un blocco da disegno su cui tu puoi, se siete come me, che sono praticamente negato nel disegno artistico, come dice qualcuno, praticamente tu fai una bozza di quello che vorresti disegnare e automaticamente il sistema ti suggerisce, pensa di di capire qual è la cosa che tu volevi disegnare. A quel punto la trovi in un elenco, la clicchi e lui te la riporta sul blocco, in modo che sembra che tu abbia disegnato perfettamente quello che stavi per disegnare. Prendetelo come il più classico dei cazzilli, cioè un gingillo per vedere e per perdere 10 minuti per vedere quanto questo tipo di reti neurali di intelligenza artificiale riesce a indovinare quello che vorrete disegnare. Non disegnate le parolacce, tanto non funziona, l'abbiamo già provato. Però in effetti ho fatto uno schizzo stupido di una lampadina e ha trovato la lampadina. Sì, ma se, guarda, io ho provato anche cose un pochino più complesse, tipo il panorama con le montagne, il sole, o un... vabbè, l'albero lo fa tranquillamente, ma un paio di occhiali... Insomma, ne ho provate parecchie e funziona. L'omino poi lo indovina subito, quello con la, cioè, col cerchietto e le... Sì. ma penso sia la prima cosa che gli insegnano. Esatto, sì. Ma anche l'occhio, insomma, io ne ho... ma neanche tanto fatto bene, se tu fai proprio un minimo l'occhio lo... Bene, e brava Google. Questa cosa del deep learning e dell'AI comincia a farmi paura, vediamo come evolve. Sono cose, se come si può dire, se fai conto di tutte le cose che abbiamo visto da Terminator a Matrix a cose del genere... c'è da avere paura forte. L'ansia, sì. Beh, dai, basta che poi, cioè, se tu pensi all'intelligenza artificiale e poi ai robot di Boston Dynamics, dici, oh cacchio, eccolo il Terminator. Esatto, abbiamo chiuso, ciao a tutti. Finito. Va bene, dai, presenta l'ultimo tuo che io ne ho due buffi miei. Allora, aspetta che questo... praticamente il link vi rimanda ad un video su YouTube che presenta un circuitino basato su un integrato che si chiama LTC2945 che praticamente consente di avere delle misure in bassa tensione, precisiamo, perché altrimenti subito si pensa a misuro la corrente di casa. Non funziona, credo che funzioni fino ad 80 volt, per avere delle misure molto precise di corrente. Il filmato è abbastanza significativo, c'è anche tutto quello che riguarda il codice per poterci ragionare o comunicare con Arduino, e il costo credo che sia talmente basso che manco ricordo, cioè tipo sarà questione di centesimi o giù di lì, quindi è interessante soprattutto perché è molto preciso nelle misure, nell'ordine dei microampere, quindi per chi ha bisogno di questo tipo di misure è una cosa interessante. Molto molto bene. Quindi non potete fare quello che ho fatto io per la misurazione della corrente a casa. No, questo no. Con questo no, a meno che escamotage di partizioni, ma non credo che sia il caso. No, ma non ne vale la pena, metti la pinza amperometrica, non è così precisa, ma funziona. Sì, oppure metti, cioè, se vuoi ci sono anche gli altri sensori, quelli ad effetto Hall, però... Non sono così precisissimi come questo che ti misura anche il microampere. Molto molto bene, serve per i circuiti per capire esattamente quanto stanno consumando, è una buona pensata. Allora, io l'altro giorno stavo navigando su Amazon, perché ogni tanto è come quando entro da Media World che mi faccio il giro per tutte le corsie e poi esco senza comprare niente, ogni tanto perdo tempo così. Stavo girovagando su Amazon e visto che Amazon sa che più o meno quello che guardo, mi ha proposto il Taj Mahal della Lego, che okay. È un progetto bellissimo, è una scatola enorme, ci clicco sopra e costava solo 5.600 euro. No, da scusa. Con aspetta, aspetta, con 2,90 euro di spese di spedizione. E io dico, fammelo pagare 5.610 e non mi metti le spese di spedizione. Ma vabbè, non importa, è un prodotto raro, è stato ritirato dal mercato, c'erano solo i collezionisti, si specula molto sopra. Ho postato questa cosa su Twitter e un mio follower mi ha detto, senti, ma tu non conosci i... come diavolo si chiamano? Aspetta. Mannaggia, ho perso il nome. Aspetta. Eh? Il Pogo. No, non si chiamano Pogo, perché no. Pogo è solo la confezione che ho linkato. Aspetta, perché ci arrivo. Allora, cronologia schede... Comunque, c'è questa serie di Lego farlocchi, cioè non sono Lego, ma sono totalmente compatibili con Lego, e li chiamano in un altro modo, fanno morire da ridere, perché hanno fatto i microfighter di Star Wars e li hanno chiamati Star Norse. Cioè, proprio come fanno i cinesi quando fanno le cose farlocche. Sono gli stessi pezzi, montano sui Lego. Quindi hanno fatto il reverse engineering del prodotto. Ora non so se sono legali oppure no, ma ho trovato la confezione delle minifigure dei personaggi di Big Bang Theory a $5. Legali però, credo, perché... Però sono bellissimi, perché è una copia così sputata, ma così fatta male nella presentazione, che fa veramente ridere. Sono bellissimi, non si chiamano Pogo, si chiamano in un altro modo, ma porca miseria, perché non... Ve li metto poi nelle note dell'episodio, perché sono veramente, veramente carini. Vedo che ci sono un sacco di cose, di scatole, vedo, di Star Wars c'è un sacco di roba, e vedo che questi modelli, che secondo me se compri della Lego non spendi meno di 200 euro, qua passano a 32 euro. Sì. E tra l'altro hanno anche tutta la serie come quelle dei Lego veri. Si chiamano in vari modi. C'è Xing, c'è Pogo. Lepin. Ecco, Lepin. Dovete cercare Lepin su AliExpress. Esce fuori tutto. Per esempio... Di Pogo a $6.20 c'è il kit con tutti i personaggi famosi di Star Wars. €6.20, penso. E c'è l'impossibile, c'è veramente tutto. Boh, questa nota di colore quasi gratis e non troppo legale, mettiamola così. Insomma, attenzione all'importazione, perché... Non si sa mai, potrebbero non arrivare. No, bloccati la dogana, parlo. Ah, dici che li bloccano proprio? Ah, guarda, adesso io non vorrei, però se è vero che bloccano le scarpe... Ah, però tu dici, però questo non ha scritto Lego sopra, in effetti... No, è un altro prodotto, che sia poi una copia è un'altra cosa, ma è un altro prodotto. Sì. No, ecco, diciamo che non so se si possano vendere in negozio questi, perché effettivamente... No, assolutamente no. Infatti i cinesi, nei negozi cinesi non li ho mai visti, nonostante potrebbero venderne a palate. Oh, dici... no, il fatto è che se ne vendono così tanti poi... finisce che li fanno chiudere. Ma infatti, anche perché credo che il brevetto sia a livello... No, magari non mondiale, ma sicuramente europeo. No, cioè... secondo me è mondiale, cioè il pezzettino Lego è brevettato. Ma sai, i cinesi fanno così anche con l'iPhone. Ah, che prendi i pezzi e te lo rimonti? No, fanno un telefono sputato, lo chiamano Ipono e te lo vendono con un Android dentro, ma è uguale a fuori. Beh, vabbè, poi tanto guarda, è uguale, cioè, anzi, forse... È meglio l'iPhone con l'Android, magari anche meglio. non è vero. Va bene. L'ultimo cazzillo che è un po' caro, questo e devo ancora provarlo, è il display e-ink per il Raspberry Zero. C'era l'offerta su, non mi ricordo, è su P Moroni. Domenica scorsa faceva uno sconto del 10 sull'intero carrello. E quindi mi sono comprato questo display, mi sono comprato il display, quello lì con i caratteri a punti verdi. Bellissimo. E mi sono comprato la Raspberry Pi 0V. Che ora non patisce più il problema della rottura di stock, perché ce n'è comunque, si può comprare. E questo display ink, quando l'ho aperto, è composto da due pezzi. Il controller, che è una scheda come la Raspberry e i cipettini sopra. E poi c'è il display. Il display è spesso un terzo di millimetro. Beh, cioè, mi ha lasciato così, veramente, veramente sottilissimo. Beh, se fai conto di quanto è sottile, tipo un Kindle o qualcosa del genere, ti rendi veramente conto che alla fine... Ma proprio una roba allucinante. Ora devo mettermi lì, saldare la basetta per i vari per i pin, uh-huh. Ce lo metto sul Raspberry e faccio qualche tentativo. Sono proprio curioso. Tra l'altro consuma pochissimo, quindi anche lui consuma solo quando cambia. È ovvio che se lo metti su Raspberry, il Raspberry consuma perché è un Linux. Ma se tu fai un qualche cosa, che accendi il Raspberry, fai quello che devi fare, lo spegni e lo lasci lì, secondo me potrebbe essere carino. Senti, ma come, cioè, funziona con qualche protocollo tipo SP o I2C o... Non lo so. Ancora non ci ho provato, perché se è un display seriale puoi metterlo su Arduino. Sì, anche. O su ESP. Esatto. Sai che io purtroppo ho questa, come si può dire, preferenza. No? Sì, lo so. No, in effetti se tu lo monti in seriale sulla Wemos, la Wemos la accendi, le fai fare quello che deve fare e poi la spegni e lui resta come tu lo hai lasciato. Esatto, quindi praticamente per sempre. Quindi qualsiasi cosetta a batteria, insomma, la batteria durerebbe... Sì, assolutamente sì. Cioè tu prendi il mio sensore di temperatura, gli metti quel display, è uno spreco di soldi, eh? Lui si accende, legge la temperatura, la scrive sul display e si spegne, finito. Sì, esatto. Secondo me funziona bene anche per un qualcosa che tipo ti fa vedere l'ora o le previsioni del tempo. Sì, infatti stavo pensando ad una di quelle micro stazioni meteorologiche collegate via web, che prendono le previsioni e te le fanno poi vedere sul display. Adesso è popolarissima quella che ce l'hai con l'OLED da 0,96, oppure ce n'è adesso una versione con display più grande da 3 pollici, 2,8, ti fa vedere gli stessi dati praticamente. Ah, ecco. Quello è molto, ma tra l'altro semplicissima da realizzare. Metti praticamente col Wemos, puoi mettere il Wemos e la sua shield, esatto, con l'OLED, è praticamente finita lì, non hai bisogno di altro. In effetti ce l'ho qualche Wemos e qualche shield con l'OLED, è che non ho mai il tempo di mettermi lì. Guarda, non dirlo a me. E che ci vorrebbero queste giornate lunghe 36 ore durante le quali lavori solo 8. Magari. No, ma basterebbe anche lavorare un po' meno. E non sarebbe male, concordo. Sì, Va bene, direi che a 1:25 possiamo chiudere. Sì. Possiamo salutare gli ascoltatori. Possiamo non dirvi i contatti perché ve li abbiamo già detti tutti quanti prima. Sì, insomma, siamo stati molto larghi di manica. Esatto. Allora, noi ci riascoltiamo tra un mesetto circa, cercheremo di prendere informazioni parlando di Lora o di Sixfox. Se non abbiamo informazioni abbastanza e parliamo di altro, è perché preferiamo parlare bene di qualche cosa piuttosto che parlarne male per poi dovervi fare il recap dopo. Esatto. Direi che da Torino, Torino è tutto. Bene, anche qui il sole non manca per il momento, non c'è neanche tanto vento, quindi anche dalla Sardegna assolata, tanti tanti ciao e ci rivediamo, anzi ci risentiamo il prossimo mese. Ciao!